Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Ben trovati su Mix 24 estate. Oggi continua il nostro viaggio negli anni 60 tra musica e storia. Ad accompagnarci in questo 1967 sono sempre Franco Schipani e Alessandra Fiori. Allora Franco, come iniziamo il racconto di quest'anno? Iniziamo come al solito con il disco più venduto del 1967. Sorriderò se non a te. Se tu non sei più qui. Buongiorno Alessandra Fiori, ti saluto con questo A chi di Fausto Leali. Buongiorno Franco Schipani. Allora Franco, iniziamo col classico Fausto Leali. Beh, un classico, tu pensi della musica leggera italiana? No, non lo è. No, è stato preso in prestito. Era un leasing da una famosa canzone che si chiamava Hurt, che ha avuto grande successo internazionale. E giustamente il nostro Fausto Leali ha detto: ma che bella canzone, adatta alla mia voce, me la canto anche io. Capito? Perché i produttori discografici, le case discografiche, in quel periodo facevano così, mia cara. Facevano il leasing. Non è il primo lui, No. C'è una lunga siamo tradizione. Siamo partiti da... Anche il contrario, O sì, Sole sì. Mio, sì, Elvis. Sì, sì, sì. Però abbiamo preso più noi da loro che loro da noi. Però quando loro hanno preso da noi, hanno preso bene. Comunque, noi ragazzi all'epoca eravamo convinti che queste canzoni fossero originali. E quindi non le avevate nessun sospetto. Ma nessun sospetto qualsivoglia. Guarda, ti faccio ascoltare un paio di brani. Hanno spento già la luce, sono rimasto solo io e mi sento il mal di mare. Il bicchiere però è mio. The room was humming harder. The ceiling flew away. When we call out for another dream, the waiter brought a tray. And so it was later. L'amore mi fa molto, molto ridere. Ma quanto si è divertito Alessandro Chiappini, il nostro mega mix chef, a fare questi mix di Dick Dick senza luce con i Procol Harum e Water Shade of Pale inglesi e Caterina Caselli italianissima con gli americani The Monkeys, le scimmie, cara Alessandra. E quindi era tutto un prendo in prestito, ma quando vi siete accorti voi di questa piccola messa in scena? Ci siamo accorti perché cominciavano a circolare delle riviste musicali specializzate molto molto informate, c'erano dei programmi radio tipo Bandiera Gialla che noi ascoltavamo, quindi sentivamo anche le versioni ufficiali, e poi c'erano dei negozi per noi leggendari tipo Gallarate. E che succedeva a Gallarate? Gallarate era un negozio di importazione dischi che si trova a nord, in Valpadana, dove noi, quando i nostri amici dicevano io vado a Gallarate a comprare i dischi, facevamo delle raccolte, delle specie di Gallarate collette. È il famoso autogrill. Sì, c'è anche sì. Un altro grill, la Gallarate. Gallarate, però c'era questi negozi di dischi che vendevano dischi di importazione, quindi noi mandavamo i nostri amici, ci organizzavamo a comprare questi dischi di importazione che arrivano dall'Inghilterra, dall'America, costavano 2-3 mila lire all'epoca, ma noi non badavamo a spese, cara Alessandra. Allora Franco, a proposito di 2-3 mila lire, adesso come sai è il momento in cui io do i numeri. E allora ti racconto, perché voglio partire proprio dal reddito. Nel 1967 la famiglia italiana ha conseguito un reddito medio annuo di circa 1,5 milioni di vecchie lire. Il reddito era molto legato all'istruzione. In quel periodo, quindi, essere laureato o no faceva ancora una grande, grande differenza. Infatti i laureati guadagnavano in media al mese 250.000 lire, mentre quelli che avevano un grado di istruzione più bassa guadagnavano 51.000 lire al mese in media. Insomma, la laurea aveva ancora un certo peso. Che cosa mi vuoi dire? Il famoso pezzo di carta, quello che si appende lì alla parete, il diploma, la laurea, esatto. Serviva a qualcosa. Aveva che un suo tempi, perché. Che bei tempi. Erano bei tempi, però i consumi, Franco, ti dico che i televisori ormai nel 1967 sono presenti nelle case di 8 italiani su 10. Adesso non so quanti ce ne saranno, però sicuramente qualcuno di più, sicuramente. Beh, uno in una casa è un po' poco oggi. No, due, tre. Due, tre, quattro, ognuno. Sette cellulari. Televisori separati, sì, televisori almeno. Separati. Tornando alla musica, Franco, una cosa io ho bisogno di capire meglio, ma l'industria discografica italiana del 67 era così a corto di idee e talenti che era costretta a fare man bassa dal repertorio ma no, estero? Fondamentalmente era un discorso economico perché gli conveniva, perché molti artisti che loro avevano in America, in Inghilterra, in Germania, in Francia, eccetera, erano firmati da questa multinazionale che aveva anche i diritti d'edizione. Quindi tu capisci che tradurre i brani, cioè, rimaneva a loro una grossa fetta di guadagno, quindi guadagnavano i nostri italiani che li cantavano in italiano, ma guadagnavano anche loro le multinazionali che ci facevano veramente dei soldi. Comunque nel 1967 in Italia abbiamo prodotto anche delle belle canzoni di grande successo. Ma non sai che tu. Che nel buio più profondo una candela brillerà. E vivo perché voglio. Parole Nico e Gabbiani, l'immensità, immensa Mina e poesia di Don Bacchi, che è anche l'autore dell'immensità che cantava Mina prima. Franco, ti posso fare una domanda davvero? Ma anche tu, Alessandro. Posso? Vai, scatenati. Ma chi è Don Bacchi? Ma Don Bacchi faceva parte del clan di Celentano. Mm. È un autore molto famoso, hai visto che canzoni meravigliose. Ma perché Don Bacchi? Perché Adriano copiava dal clan di Celentano, quindi aveva la sua gang, chiamiamola così, e quindi gli ha voluto dare un nome un po' americano, Don Bacchi, perché lui aveva un musicista arrangiatore Sinatra che si chiamava Don Costa, e quindi ha detto, come lo chiamiamo? Don Bacchi, perché no? Grazie Franco. Prego Alessandro. Allora, in Italia nel 1967 nasce il Comitato per la Programmazione Economica. Lo Stato detta le linee guida dell'economia, cercando di intervenire nelle inefficienze del mercato con dei piani di 5 anni di programmazione economica, appunto. E con l'appoggio dell'IRI nasce lo stabilimento dell'Alfa Sud di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, all'epoca un'azienda di Stato. Ed è uno stabilimento che dà lavoro a migliaia di operai. Dottore, scusate, ma... mi sembrava una faccia conosciuta, ma fosse con un ragioniere dell'Alfa Sud. No, non sono un ragioniere, sono il capo del personale. Azzurro, il capo del personale dell'Alfa Sud. Dottore, per puro caso qui tenga un curriculum di mia cugina Vanetta Luigi. Questa è la fotografia, questa è il concetto illimitata. Sì. Questi sono certificati a mio collega che ha Franco, scusa? Ma ti sei messo d'accordo? Che hai messo? Non ho capito. Beh, parlavi dell'Alfa Sud, quindi questo è un breve brano tratto dal film Così parlò Bella Vista di Luciano De Crescenzo, che è un noto autore, tu lo conosci, ha scritto libri meravigliosi, che è stato prestato in quel momento al cinema da scrittore e diventato regista. Ed è una scena molto divertente perché si parlava dell'Alfa Sud, in cui lui entra in un bar e dice: ma lei è come? Lei è il capo dell'ufficio che assume, quindi immagino tutta la gente che andava dentro a dargli i curriculum del padre, della madre, del fratello, della sorella, dei cugini più lontani, perché tutti quanti cercavano un posto di lavoro. Il famoso posto fisso. Esatto. Esatto. Senti, ma a proposito di auto, in questo 1967 gli italiani viaggiano ascoltando la musica con l'autoradio, che diventa sempre di più oggetto del desiderio. Nel 67 è tra gli accessori della nuova Fiat 125 che a maggio viene presentata. La nuova berlina Fiat viene accolta positivamente da pubblico e critica. Gli interni sono nuovi e spaziosi, ha il tergicristallo con comando a intermittenza e il contagiri elettronico. Insomma, sono tutti gli accessori di questa berlina, e c'è anche l'antifurto blocca sterzo e l'autoradio, Che però non funzionava, perché io mi ricordo quando tu uscivi dalla macchina all'epoca, attenzione, questa autoradio in molti casi era estraibile, quindi quando tu andavi al cinema non è che lasciavi l'autoradio dentro. No, certo, te la portavi. E infatti tutti quanti quelli che andavano al cinema avevano l'autoradio classico sotto l'ascella, se lo portavano. Ma per una volta ti posso far sentire io una cosa che si sentiva sulle autoradio? Vai. X24 estate. Amore, amore, che mai sarà di me? Amore, amore, amore, Franco, portami tante rose dei Camaleonti. Abbiamo detto che si sentiva questo nell'autoradio nel 1967, che stiamo ripercorrendo attraverso la musica e la storia. Io sono Alessandra Fiori, qui c'è Franco Schipani. Ciao Alessandra. E a proposito di amore, amore, tante rose da portare, Franco, ti voglio dire che in questo anno in Italia c'è un dibattito che inizia a diventare sempre più incalzante, ed è quello sul divorzio. Alla Camera si discute una proposta di legge sull'introduzione del divorzio, e sul tema c'è un duro intervento di Papa Paolo VI, che pronuncia un famosissimo discorso sull'indissolubilità del matrimonio, prendendo quindi posizione contro ogni possibilità di divorzio. Dello stesso anno l'enciclica di Paolo VI, Populorum Progressio, una denuncia dello squilibrio tra i paesi ricchi e quelli poveri. Il pontefice afferma che non può esserci sviluppo e progresso senza una giustizia sociale. L'enciclica quindi propone una creazione di un fondo mondiale per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. E ancora il 26 giugno del 67 Papa Paolo VI nomina nuovi cardinali. Tra questi ce n'è uno in particolare, Franco, è un cardinale polacco che, diciamo, farà molta strada. Sì, hai capito? Sì, hai assolutamente capito? Direi è Karol Wojtyła, ovviamente neocardinale di Cracovia, entra nella commissione vaticana valuta da Papa Paolo VI sul problema della popolazione e della limitazione delle nascite, ma non vota con la maggioranza che si esprime a favore dei contraccettivi. Ecco, questo, quello sui metodi anticoncezionali, è un altro dibattito che sarà ed è al centro delle cronache di questo 1967. Pillola, un problema di attualità del quale ancora il codice proibisce la discussione. La Commissione del Consiglio Superiore di Sanità e la maggioranza degli esperti vaticani hanno dato parere favorevole all'uso controllato della pillola antifecondativa. Ma la possibilità di una maternità cosciente è ostacolata nei fatti dall'articolo 553 del codice penale, che proibisce la propaganda anticoncezionale. Tuttavia la pillola si vende anche in Italia. 6 milioni di pillole in un anno, 9 prodotti in commercio senza che però ne sia dichiarata l'azione antifecondativa. Ecco, nel 1967 in Italia viene autorizzato l'uso della pillola anticoncezionale, ma solo per fini terapeutici. Anzi, lo abbiamo sentito, non si poteva parlare della pillola come metodo contraccettivo, non si poteva fare proprio propaganda e dunque nemmeno nessun tipo di informazione sul tema. Bisogna aspettare il 76, quindi quasi 10 anni, perché le cose cambino. E infatti sarà nel 76 che verranno abrogate le norme che vietano la vendita della pillola e quindi diventerà in modo chiaro e palese, direi di sì. Come già sapevano già tutti prima. Lo sapevano, però non era così chiaro e palese. Non si poteva promuovere, esatto. Diciamo. Ecco. Comunque, insomma, arriverà la pillola anticoncezionale per tutte le donne e si può fare informazione, e questo credo che cambierà un pochino il resto è storia Franco. Ma intanto, nonostante questi cambiamenti epocali, la musica italiana rimane romantica e melodica oppure c'è qualcosa? ci sono dei cambiamenti e guarda, ti faccio ascoltare un brano che forse ti può spiegare meglio di tutti cosa stava succedendo. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione. I Nomadi con Dio è morto. Mi ha risposto, Franco. Ti ho risposto. Beh, è un bel cambiamento. Ma pensa che all'epoca, per esempio, non c'erano ancora le radio libere, ovviamente, neanche le televisioni, chiamiamole libere. Quando tu facevi un programma in radio, dovevi prendere i dischi che erano nella discoteca della Rai, a Via Siago. Tu andavi, compilavi un modulo dove dicevi che disco era, chi lo cantava, il numero di posizione dentro l'archivio, perché sennò non poteva essere trasmesso, perché ufficialmente non esisteva. Ecco, quando è stato portato questo disco Rai, c'è il titolo Dio è morto, per carità non se ne parli neanche, quindi non l'hanno proprio messo il disco, non si poteva trasmettere. Però sa chi l'ha trasmesso? No. Radio Vaticana. Davvero? Perché se l'ha sentito bene, l'ho ascoltato bene, ma questo è un pezzo fantastico. Ma lo vedi che è pazzesco, sono veramente avanti un sacco di volte. Si sono fermati al titolo, sì. Quelli della Rai, invece il Vaticano ha detto questo qua è un ascoltiamolo pezzo. Senti Dio risorto. Dio è risorto, capito? Allora, se uno risorge, uno muore. E chi è che muore? Muore la generazione Beat. Caro Beat, mi piaci tanto. Sei forte perché hai portato, oltre alla musica, dei bellissimi colori che danno una nota di allegria in questo mondo pieno di nebbia. Però, se i ragazzi che non si lavano, quelli che scappano di casa e altri che si drogano e dimenticano Dio fanno parte del tuo mondo, o cambi nome o presto finirai. Tre passi avanti e muore il mondo Beat. Adriano Celentano che già preannunciava la morte della generazione Beat, pensa. Parla Celentano. Sì, incredibile, Celentano parla. Ha cominciato a parlare quest'anno. Ha iniziato è vero. È pazzesco. Ecco, Celentano se la prende con alcuni aspetti negativi della generazione Beat. Primo fra questi, l'uso degli stupefacenti. Infatti nel 1967 c'era stato il primo grande raduno a San Francisco in California, la famosa Summer of Love. E mentre noi in Italia continuiamo a fare le nostre belle canzoni melodiche o di semi-protesta, beh, a Monterey era tutta un'altra musica. You know I caught her messing around with another man. true. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Hey Joe, Jimi Hendrix, Lose in the Sky with Diamonds dei Beatles e Light My Fire, i Doors. Mix 24 estate. E siamo rientrati con i Doors, meravigliosi. Come Alessandra. Lo dici, Doors. Doors, le porte. Bentornato Franco Schipani. Ciao Alessandra Ciao Fiori. Ciao Franco, siamo sempre su Mix 24 Estate, siamo nel 1967 e lo stiamo raccontando attraverso la sua storia e la sua musica. I Doors, Come on Baby Light My Fire. Assolutamente, guarda che loro, la storia è divertente, loro sono andati all'Ed Sullivan Show, che era lo show americano dove dovevi esserci per diventare poi di successo e vendere i dischi. Come diciamo, i Doors da Ed Sullivan è come i Sex Pistols che vanno alla prima edizione di Domenica Inn e magari incontrano Pippo Baudo, tanto per renderci, capito? Sì, ho capito. L'idea, ci dovevano andare. Ecco, Ed Sullivan disse: su questa canzone dovete cambiare, che era dal vivo, dovete cambiare questa parola perché non mi piace. Qual era? Era una parola un po' trasgressiva. Troppo trasgressiva. E Dolce dice: non ti preoccupare, la cambiamo. Invece quando andarono dal vivo la cantarono assolutamente. Ma io ti voglio dire, ma ti pare che Jim Morrison può cambiare una parola? Ma l'hai visto? Ma assolutamente. Infatti lui era il vero rivoluzionario, vero? Ecco, Jim Morrison e rivoluzionari. Io ti voglio dire che intanto anche in Italia iniziano a soffiare dei venti rivoluzionari e dopo l'Università di Trento continuano le occupazioni degli studenti che protestano contro il progetto di riforma dell'università presentato dal ministro della pubblica istruzione Luigi Gui. Si occupa così anche l'Università di Pisa, poi Palazzo Campana, che è la sede dell'Università di Torino, e a Roma la facoltà di architettura a Valle Giulia. Insomma, Franco, ci si prepara al 68. E sempre restando nel campo dell'educazione scolastica, nel 67 esce l'ultimo libro di Don Milani, Lettera a una professoressa, scritto insieme ai ragazzi della scuola di Barbiana in provincia di Firenze. Il libro è un atto d'accusa contro l'intero sistema scolastico, definito, pensa, classista. E nel libro c'è il sogno di una scuola che si ispiri a un principio di solidarietà al posto del classismo, Franco. Se mandate via i poveri, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. Perché il sogno dell'eguaglianza non resti un sogno, vi proponiamo tre riforme. Non bocciare. A quelli che sembrano cretini, dargli la scuola a pieno tempo. Agli svogliati basta dargli uno scopo. Ora siamo qui ad aspettare una risposta. Ci sarà bene in qualche istituto magistrale qualcuno che ci scriverà. Lorenzo Milani muore il 26 giugno del 1967, ma intanto questo libro diventa un caso letterario e, nato dal progetto di un sacerdote, diventa paradossalmente uno dei testi sacri del 68 italiano. Ma non solo. Ascoltate cosa diceva Pasolini di questo testo. Di questo libro devo dire in generale tutto il bene possibile. Non mi è mai capitato di essere così entusiasta di qualcosa e di sentirmi così, in un certo senso, obbligato, costretto a dire agli altri: leggetelo, perché oltretutto è un libro che riguarda sì la scuola come argomento specifico, ma nella realtà riguarda la società italiana, la qualità di vita italiana. Ecco, ma fuori dall'Italia, nel 1967 uno dei più grandi rivoluzionari di tutti i tempi muore in Bolivia. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Il 9 ottobre del 1967 Che Guevara, ferito, viene catturato in un'imboscata delle forze governative ed è proprio qui in Bolivia che nasce un vero e proprio mito. Intanto la guerra in Vietnam continua, seguono i bombardamenti, ma in tutto il mondo aumentano le proteste con delle grandiose marce per la pace. A San Francisco, a New York, a Washington sfilano migliaia di persone e il cartello che espongono è uno solo: Stop Bombing. E ancora guerra invece. Il 5 giugno inizia la cosiddetta guerra dei sei giorni ed è quella tra Israele e l'Egitto. E poco prima dello scoppio della guerra, il presidente egiziano Nasser e il ministro della difesa Moshe Dayan parlano così. Ora cosa accadrà, presidente? Pensa che gli israeliani attaccheranno gli arabi? Siamo qui ad aspettarli, abbiamo lasciato l'iniziativa a loro. Noi li aspettiamo. In tutte le principali città europee si tengono manifestazioni a favore di Israele. È troppo tardi ed è troppo presto. Troppo tardi per una reazione immediata al blocco dello stretto di Eilat ed è troppo presto per trarre qualsiasi conclusione sulla gestione diplomatica o del negoziato. Questo è il punto. Vengono occupate la penisola del Sinai, la striscia di Gaza, il settore arabo di Gerusalemme e la Cisgiordania e le alture siriane del Golan. Un conflitto che ha conseguenze di lunghissima durata. Ma c'è un'ultima notizia internazionale e questa però è positiva, Franco, perché il 2 dicembre del 1967 Christian Barnard, un chirurgo sudafricano, effettua il primo trapianto di cuore al mondo. L'esito non è felice perché il paziente trapiantato sopravvive in effetti solo pochi giorni, però è comunque una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina e Barnard diventa una star. Beh, mentre il resto del mondo va a fuoco, Alessandra, come mi facevi sentire prima, a Sanremo invece, beh, vince questa canzone. Non pensare a me, continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi? C'è stata solo una parentesi. Hai sentito Claudio Villa? Franco, l'ho sentito, sì. Non Claudio pensare Villa. A me. Da Light My Fire a Claudio Villa è difficile non accorgersene. Ma soltanto con queste manovre un po' acrobatiche si possono mettere insieme i Doors e Claudio Villa. Comunque, questo festival forse si sarebbe potuto archiviare così. Invece, purtroppo, nel 67 rimarrà sempre l'anno in cui si suicidò Luigi Tenco, che è stato eliminato dalla competizione con la sua struggente canzone Ciao amore, ciao. La tragedia di Tenco scuote il paese, Franco, ma c'è anche un'altra morte che lascia un po' orfani tutti gli italiani. Totò è morto questa notte a Roma. Il decesso è avvenuto per infarto cardiaco alle 3:25. E vani sono stati i tentativi dei medici di tenerlo in vita. Il vero nome dell'attore quasi settantenne era Antonio De Curtis, principe di Bisanzio. Giornalisti e fotoreporters affollano dalle prime ore di stamani la casa di via Monti Parioli dove l'attore è... Il 15 aprile a Roma muore il principe Antonio De Curtis. Pochi giorni prima, in un'intervista, aveva dichiarato: chiudo in fallimento, nessuno mi ricorderà. Certo, una profezia azzeccatissima, proprio azzeccatissima. Sì. Comunque aveva 69 anni e è rimasto ineguagliato. Excuse me. Sega. Bitteschön. Noio. Sega? No. Ha capito? Carissimo. Dopo ti spiego. Noio. Volevant savoir. Noio volevant savoir l'Idris. Ja. Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate, Dunque... Ma dove vi credevate di essere? Siamo a Milano qua. Punto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Andare. Sa, è una semplice informazione. Sentite. Sì. Se volete andare al manicomio... Signore. Vi accompagno io. Signore. Ci sono delle scenette che non ti stanchi mai di ascoltare. Mai. Al Duomo di Milano con il vigile, dice questo è un generale austriaco. A me quella col colbacco e i salami alla stazione di Milano. Arrivo, sì, quando sì. Andato in visita a Milano. È bellissimo. Pazzesco. Comunque una delle più belle battute di Totò, secondo me, diceva... Ci hai fatto caso che muoiono sempre gli stessi. Non si è mai capito che vuol dire, però... No, è chiarissimo, sempre gli stessi. Senti, comunque nel mese di gennaio c'è la partenza alla radio, Franco, della storica Hit Parade di Lelio Luttazzi, che diventa in breve uno dei programmi radiofonici di maggiore successo tra i giovani. E al cinema escono film cult come Indovina chi viene a cena di Stanley Kramer, che è un magnifico ritratto non solo dello scontro tra bianchi e neri, ma anche di quello generazionale tra genitori e figli. Adesso parlo io. Tu hai detto che non mi vuoi insegnare come devo vivere. E finora che cosa hai fatto? Ma hai detto quali diritti ho e quali non ho, quello che ti devo per ciò che hai fatto. Ma lo sai che cosa ti dico? Che io non ti devo niente. Se con la borsa a tracolla tu avessi fatto 1 milione di miglia, avresti fatto quello che dovevi fare. Perché mi ci hai messo tu a questo mondo. E da quel giorno tu mi dovevi tutto ciò che potevi darmi, come io lo dovrò a mio figlio se ne avrò un altro. Ma io non sono tuo. Tu non puoi dirmi dove né quando io sto sbagliando, né puoi tentare di farmi vivere secondo le tue regole. E tu non sai nemmeno chi sono io, papà. Tu non sai chi sono, quali sono i miei sentimenti e cosa penso. E se te lo volessi spiegare non ti basterebbe tutta la vita per capirlo. Tu hai 30 anni più di quelli che ho io, papà. Tu e la tua sciocca generazione credete che così come è stato per voi dovrà essere sempre. E finché tutta la vostra generazione non sarà sottoterra, non riusciremo a levarci dal groppone il vostro peso morto. Insomma, ti devi togliere dal mio groppone. Franco, togliersi dal groppone. Pesante. Ma lo sai che è molto pesante, anche perché non è solo un fatto generazionale, non credo. Assolutamente, hai ragione. A un certo punto questo discorso nella vita di un genitore arriva. Con tuo figlio che ti dice le tue aspirazioni non sono le mie, le tue frustrazioni non sono le mie, come si fa? Ricordati che se hai un figlio ci sono 3 periodi, il periodo che qui dice mio padre sa tutto, poi c'è il periodo mio padre certe cose non le sa, poi c'è mio padre non capisce nulla perché vuoi essere gentile, e poi c'è aveva ragione mio padre. Allora sono 4. Sì, 3, poi c'è l'ultimo che finisce in bellezza, ecco, l'ho lasciato un attimo da parte, quella è bella. Comunque in questo 1967 il cinema vede il trionfo de Il Laureato, una pellicola che porta agli onori di Hollywood un giovanissimo Dustin Hoffman alle prese con una signora un pochino più grande di lui. Senti, forse per te sarebbe più facile al buio. Signora Robinson, io proprio non posso. Che cosa? È proprio una cosa che non va. Non ti piace abbastanza? Oh, no, signora, lei è la più affascinante degli amici dei miei genitori. Lo dico sul serio, lei mi piace tanto, però... Santa pazienza, ma se l'immagina i miei, ci pensa che cosa direbbero se ci vedessero ora qui in questa camera? Cosa direbbero? Non ne ho idea, signora, ma santa pazienza. M'hanno cresciuto, non m'hanno fatto mancare niente, non si meritano che mi comporti così. Non meritano che alle loro spalle salti in un letto con la moglie del loro socio. Hai paura di me? Oh no, non è questo il punto. Senta, e se invece facessimo qualcos'altro? Signora Robinson, le piacerebbe andare al cinema? Il Laureato, tu sai che l'ho finanziato io in parte questo film? Ma no, Franco, scusa, ero pronta a qualunque cosa, ma non a questa. L'ho visto 26 volte, quindi in qualche modo l'ho finanziato. In questo senso. Perché mi sono innamorato prima di Ellen e poi della madre. Alla 18ª volta ho detto, ma sai che anche la madre non è male. Comunque ti posso dire che quando uno ti dice, innanzitutto santa pazienza, signora, e poi ti dice andiamo al cinema, ma che fai? Ah, non lo so. Vai al cinema, dici va bene, guarda, andiamo al cinema. È molto meglio andare al cinema. Comunque questo film ha aiutato moltissimo l'Alfa Romeo, il nostro Made in Italy, perché dopo quel film l'Alfa Romeo ha venduto tantissimi duetti. Alfa Romeo l'ha chiamato appunto America. Mica male. Comunque Franco, lo dovresti dire te, ma lo dico io. C'è solo un motivo per questo film. Qual è? Questo. Robinson, heaven. Ecco, Dustin Hoffman, prima di fare questo film, era un attore spiantato, viveva al Village insieme a Duval, cioè in Robert due, Duval. Sì, non facevano un dollaro in due e andavano a mangiare sempre in questo ristorante che si chiamava Bianchi e Margherita, proprietario italiano che gli faceva credito. Finalmente lui ha fatto il laureato, ha guadagnato dei soldi, è tornato, ha pagato i conti dell'arretrato e ha dato una mancia principesca che veniva dicendo: queste sono tutte anche le mance arretrate, godete. Un signore, così un signore, si fa, un bravo. Signore, comunque lui è meraviglioso in Tuzzi, quando diventa, non trova un ruolo da uomo, dice io divento donna, mi fa impazzire lì. Comunque, purtroppo o per fortuna, Franco, scegli tu, perché non so che edizione è quella del 1967, ma arriviamo al Festival di Sanremo adesso. Arriviamo al Festival di Sanremo, vi faccio sentire due brani divertenti. Mi chiami Brambilla, che fu l'uperare, la ori la ghisa, per pochi denari. Sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Proposta: i giganti e le pietre di Antoine. Veramente, Franco? Questo mi vuoi dire, Franco? No. Secondo me puoi fare di più. Posso fare di più. Allora, vediamo un po' cosa ci ricordiamo di quel festival. Cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato te. Va meglio, Alessandra? Va meglio, perché tu sai quanto io ami la Vanoni. Era Cuore matto di Little Tony e Ornella Vanoni con La musica è infinita. Però infinita, Franco, non infinita. Infinita? Infinita, però io, nonostante la Vanoni, non so perché, ma mi è venuta un po' di voglia di andare fuori, di andare, non so, verso gli Stati Uniti, verso l'Inghilterra. Dove mi porti adesso, dai? Ti porto in Inghilterra con Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. Tuesday, let's spend the night together, The Rolling Stones. Lo vuoi ridire ancora? The Rolling Stones. No, mi piace troppo. Ma non ce ne siamo accorti. Senti, 1967, Franco, ovvero 49 anni fa, mezzo secolo. Beh, abbastanza, è parecchio tempo in realtà. Però a volte le distanze sembrano annullarsi, soprattutto quando si parla di giustizia. Alla presenza del capo dello Stato si è aperto a Roma l'anno giudiziario 1967. Previsioni tutto sommato confortevoli sull'andamento della criminalità, anche se aumenteranno i reati tipici delle civiltà industriali, rapine e violenze a mano armata. Ma il grosso problema è la crisi della giustizia. Le Cape di Ermellino, cioè i giudici di Cassazione, rappresentano il vertice di un potere autonomo al quale spetta, disse Saragat, di rendere ai cittadini giustizia rapida e sicura. Una giustizia che non è invece né rapida né sicura. La durata dei giudizi tende ad aumentare paurosamente e tutto è incerto per l'arretratezza delle leggi e per i conflitti che dividono la magistratura. Giustizia né rapida né sicura, la durata dei processi, i conflitti nella magistratura, insomma, Franco, sembra essere arrivati di colpo nel 2016. E invece io vorrei ritornare con te nel 1967, quindi che cosa facevano? Non cantare, ma questa volta ballare. E allora, dato che ti è presa la ballerinita come al solito, ecco, ti accontentata. Give me some loving, Spencer Davis Group and Black is Black, Los Bravos. Scusami Franco, c'è una grandissima assenza oggi. Una lacuna? Una lacuna che io devo denunciare. Ma dov'è la tua amata Nicoletta Strambelli? Ah, è al Piper. E in quell'anno canta la sua canzone manifesto. Bionda delle mie notti insonni. Patti Pravo nel 67 canta al Piper e Franco Schipani è ragazzo fuori. Ragazzo triste che vorrebbe tanto entrare. Ero io, non mi facevano intanto, entrare. Ma intanto, no Franco. Ero minorenne. A quel tempo sì, ti piaceva? Tanto. Tanto. Senti, nel 67 comunque, mentre la Patti Pravo canta al Piper, un grande campione segna un importantissimo traguardo. La vera corsa impegna in primo piano Felice Gimondi, lanciato verso la conquista della maglia rosa. È il famoso fatidico giorno della Santa Alleanza tra gli italiani. La gente applaude l'arrivo di Felice Gimondi, tutto solo, lanciatissimo verso la conquista in maglia rosa. 11 giugno del 67, Felice Gimondi vince il 50° Giro d'Italia, un grande successo sportivo. Ma adesso, Franco, è il momento di salutare anche questo 1967 e indovina come lo facciamo? No, non indovinare. Lo facciamo alla grande. Lo facciamo alla grande, lo facciamo con un brano del 1967, ma reinterpretato oggi, ed è anche un omaggio a Luigi Tenco, una canzone scelta come sempre da Antonella Migliaccio, è Ciao Amore Ciao, nell'interpretazione di Marco Mengoni. Noi ci rivediamo ancora con Franco Schipani nel 1968. La solita strada bianca come il sale, il grano crescerà.